in diretta dal ristorante giapponese di luogo ignoto, ma ora in onda Obecast. In realtà non siamo più in due, non siamo nemmeno in tre, non siamo nemmeno in quattro. O forse sì, siamo in quattro. Siamo in quattro. Siamo in quattro. Siamo tanti, siamo belli, siamo freschi, siamo freschissimi. Ma tu ti ricordi come ti chiamavi? Ma tu sei quello che non dorme da due notti. Ma allora, si vede? Sì, si vede abbastanza. Hai detto prima che sei fresco come una rosa. Come una cozza. Allora, questa sera abbiamo direttamente dal gruppo Linux Como, attenzione, come ospite speciale, forse specialissimo... Davide! No! Davide chi? Di chi? No, chi? Io sono Coso. Coso, cavolo, non lo dobbiamo tu dire. Tu sei Loris. Ok, è vero, io sono Loris e lui è Fabrix. E tu sei? Io. No, io. Io. Ma e lui è una... lui. Ma qua si sente una quarta voce. Allora, chi è? Chi è? E abbiamo con noi, che non vuole far sapere qual è la sua identità. Ma cos'è? Ma... Lo chiameremo Gianna. Lo chiameremo Gianna. Gianna per Jameson. Confondere le acque, Gianna Jameson è una pornostar del gruppo Linux Como. E, ognuno ha le sue. Noi attiriamo molto pubblico con questa scusa. Tutti dicono, oh, devo installare una cosa. Scusi, posso montarle la partizione? Guardi. Vieni qua che te le installo. L'ha capita bene che tipo di file system vuole. È quello che vuole lei, non è uguale. L'importante è che sia immune da virus. No, guardi, la mia ex fidanzata aveva un Next 4, mi sembrava un po' troppo larga. Se riusciamo a restringerci un attimo, stiamo su una terza, su Next 3. Va bene, è un inizio alternativo di Open Cast Alpha, questa puntata numero 2. Siamo molto lanciati, sarà stato forse la cena? Il ristorante? La cena presso un ristorante giapponese di un luogo non identificato. Di cui non possiamo ovviamente fare il nome perché non ci paga. Ci pagasse dei dindi, non andremmo più lì a mangiare. Se ci pagasse, siamo stati noi. Se ci pagano loro, voglio la piadina. La prossima volta andremo a piadina. Ha speso la corrispondente di 5 piadine e non era sazio, tra l'altro. Dopo wonton fritto, Per tutti. Coca-Cola col wonton fritto per tutti. Ho la friggitrice qua fuori. Ottimo, siamo belli carichi, direi. E allora parliamo di friggitrici che montano kernel 2.6.2.4.5.4.3, che è un kernel di nuovissima generazione. È un kernel e chi l'ha prodotto? L'ha prodotto la Linux Foundry Foundation. E allora parliamo di cose serie. Un attimo, è arrivata la velina. La regia? Da. No, allora il servizio sugli esteri non l'abbiamo. Abbiamo un attimo di problemi sulla politica oggi. Gianna, qui piove. Allora, da me invece è bello, va benissimo. Grazie, Matteo. No, chi? Gianna. Allora. Ringraziamo Gianna. Allora andiamo avanti con il servizio. Parliamo di, tanto per cambiare, realtà aumentata. Chi si ricorda della realtà aumentata? Scusa, ma sei fissato? Mi hanno passato questa news. Allora, voglio parlare di Qualcomm. Voi sapete chi è Qualcomm? È uno dei produttori dei micro... Cioè, non è che produce proprio. Produce dei microprocessori. Non è che li produce. Cioè questo lavora come lavori te. Questo lavora male. Lavora come lavori te. Cioè, prende la roba degli altri e la rimarchia. Lavora come lavori te. Per esempio, il processore Qualcomm M76543 è un processore su architettura ARM, però la Qualcomm dice che è roba sua. Insomma, la Qualcomm sta lavorando, sta credendo nella realtà aumentata, perché ha presentato... Siamo in due. Io e la Qualcomm che stiamo credendo nella realtà aumentata, perché noi ci scimmiamo così. Augmented Reality Extension per Unity, in pratica è una piattaforma di sviluppo presente per più sistemi operativi, la potete utilizzare per Windows, Mac e Linux, e serve per creare delle applicazioni abbastanza efficaci che sfruttino l'architettura dei processori appunto della Qualcomm. Soprattutto si sta puntando sui videogiochi. Io per esempio ho messo mano a qualche giochino tipo... com'è che si chiamava quello delle astronavi vecchio che sparavi? Non era proprio quello. Beh, insomma, ci sono... Sì, sì, era quel gioco dove dovevi sparare. Sparavi? Sì. Ok, quindi, stavamo dicendo, questa è una bella news. Poi c'è una battuta che ha scritto Davide che io non ho il coraggio di leggere. Però se volete, ve la leggo para. E no, ti pareva, appena si muovono un po' di soldi, subito, l'ha scritta. Allora, l'ho scritto con Gedit. Si sviluppa. Tra un po' avremo anche i bagni con un monitor che trasmetterà la pubblicità e tramite webcam si accorgeranno che siamo ostitici e via di purga pubblicità. Vabbè. E che bello! Io non c'era, fa quasi più ridere così che in originale. A questo punto. Purga oggi. Bene, passerei la oggi. Passerei la palla a Coso. Ti richiama domani. Passerei la palla a Coso. Insomma, a parte cosa vuoi? Allora, io ti devo parlare. Parlami. Di Leopard. Che cos'è Leopard? Leopard. L'amico povero di Leopard. Esatto. Fermi tutti, per cortesia. Innanzitutto sappiate che è stato coniato in Puglia questo termine, perché quando è uscito il concorrente, l'iPad, tutti quando dicevano l'iPad in Puglia dicevano, allora hanno deciso, è arrivato un ingegnere IBM, questi sono cinesi, Lenovo, sono cinesi. L'iPad, comunque, scusa, guarda che si è castrato l'iPad sotto il microfono. Comunque, sì, avanti, imbecille, ma non lo so. Jean-Louis LePed è il nuovo presidente francese che promette più profumo e sapone di Marsiglia per tutto il mondo. Ma allora mi fai parlare o no? Sì, prego. Ok, sì. LePed, sì. Il nuovo tablet di Lenovo. Lenovo ha detto no, aspettiamo a farlo uscire, piove. C'è stato il problema, non si sa mai. Aspettiamo. Ma cos'è che aspettiamo? Aspettiamo che viene pronta la Salerno-Reggio Calabria? No, aspettiamo Android. Perché? Perché ha detto no, Windows 7, no, tienilo lì, vai tra, non ti preoccupare. Troppo avido. Noi ci mettiamo Android. È troppo avido di risorse Windows 7. Allora adesso aspettiamo primo trimestre 2011 in America, cosa facciamo? Andiamo tutti assieme a comprarlo? Ma io lo voglio. Io andrei in Cina, più vicino a sto punto. Faccio, sì, prendo sulla macchina. Sai, la Cina è vicina. Tu la devi smettere. Tu sei andato in Mongolia una volta, tutto in macchina. Adesso non è che lo devono sapere tutti. Andiamo in macchina, vicino, un attimo, un mesetto, siamo lì. Te, ma ha telefonato il consolato, mongolo? Sì. Sì. Ho dimenticato uno zainetto. Grazie di avermelo ricordato. Per quella storia di quel bordello che devi ancora pagare. Vabbè, e allora io a questo punto interpellerei Jenna, che ci voleva parlare di Firefox. Bene, Gianna, bene. Tutto a posto. Tutto a posto. Che voce, Gianna. Gianna è in collegamento. È normale, fa schifo. Vabbè, comunque. Hanno appena rilasciato la nuova beta del browser Firefox di Mozilla. Ed è un'ottima... Quello con la volpe. Sì, esatto, quello con la volpe. L'alternativa a browser che ora non nominiamo per... Lynx. Anche Lynx e anche Lynx scritto nell'altra maniera. Quello... Nell'altra maniera. Esatto. Certo. Tranquillate per animali, per favore. allora ci abbiamo Jenna che un po'... c'è Jenna che un po' agitato perché... No, vai avanti. Sì, d'accordo. Vabbè, comunque hanno rilasciato la nuova beta ed è estremamente veloce. Su JavaScript è ottimo. E ma a noi cosa comporta? Navigheremo Antonia molto più velocemente di prima. Molto, perché sono proprio differenze che si notano. Quanto? Ma come si fa? Sarà due nanosecondi. Molto, ma anche meno, cioè comunque. Meno di due nanosecondi. Non navigheremo più. Va bene, basta. Tu non farei tempo a pensare di andare da una parte. E già il browser si apre. È già lì. Hanno anche cambiato l'interfaccia sui sistemi Linux, finalmente, perché prima l'avevano cambiata solo sotto Windows. E adesso anche a noi sono arrivate le nuove interfacce. Cos'è arrivato? Non l'ho mai visto sotto Windows ultimamente. Ma hanno fatto un po' di macello, hanno messo le tab, hanno ristretto lo spazio tra le tab e il bordino. Il famoso bordino. Esatto. Sai, quando non ti senti molto bene. Di Firefox. Sì. Quando tu non ti senti molto bene. Hanno messo un bottone arancione. Vedi, bordino ridotto. Scusi, Jenna, lei che è anche vicepresidente, a questo punto sbanderiamo la cosa, visto che non vogliamo fare nomi. Non facciamo nomi. Non facciamo nomi, quindi lo trovate su internet. Se volete, vi diamo anche il numero della tessera. Ma quindi questo... 13. Tessera numero 13. Ragazzi, allora, ma mi faccia capire, quindi l'hanno fatto un po' più simile a Chrome a questo punto? Esatto, l'hanno cromato. L'hanno cromato, adesso se lo mettete in lavatrice non si ossida più e non c'è più problema di... E per asciugarlo anche l'asciugatrice va bene? Per asciugarlo sì, va bene anche l'asciugatrice, ma anche con lo straccio va benissimo. E se invece lo volessi mettere in tasca? Perché ho sentito anche parlare di una versione mobile che sarà disponibile. Attenzione, perché Firefox in tasca fa veramente caldo, infatti soprattutto se vi lamentate del surriscaldamento del vostro PC non dovete installare Firefox perché va veramente a fiamme. Neanche il Firewall ovviamente. Ah, ok. Quindi anche il telefono, il telefono è il rischio esplosione. Anche Thunderbolt. Il telefono me lo esplode se metto Firefox 4 sul telefono. È possibile. Io ho Ice Dove cellulari che si chiama Fennec. Ah, il Fennec. Esatto. E che è l'Eltvig Fennec 4.0. Esatto. È un telefono, cioè un browser molto sexy. Voltiamo pagina e ringraziamo Gianna. Gianna, ricordiamo, in collegamento dalla sede segreta del Gellecomo. Segretissima. Sì, quella ricoperta di velluto rosso e specchi. Ma quella di Viano Zero. Non era Bat Caverna. No, quella era la volta scorsa. Ah, ok. Niente, voltiamo pagina e parliamo di... Che io non ho ancora capito come si pronuncia. Scusi, ci faccia sentire questo voltiamo pagina. Voltiamo pagina. Ah, bene. E quando sentirai questo suono, vuol dire che devi voltare pagina. Bene. Parliamo di Kinect. Anch'io ce li avevo. Vero? A mille ce n'è, cosa vuoi che ti dica? Mille. Parliamo di Kinect. Chi? Kinect. Chi? Kinect. Kinect. Chi è Kinect? Kinect è il nuovo controller di Microsoft che Microsoft appunto ha appena lanciato sul mercato, cioè, anche europeo. È uno che controlla Microsoft. Esatto. È il nuovo controllo, quello che consente di videogiocare senza utilizzare nessun appendice wireless. Lo so, quella pubblicità scema con tutti quelli che si muovono. Quelli che si muovono come dei deficienti, esatto. Pensavo fosse quella della birra io prima. E, sono tutti molto contenti in Microsoft perché ne hanno venduti un fottio. quelli di Sony un pochino si rosicano le palle perché hanno fatto quel bruttissimo controller per farlo simile a quelli del Move. L'ice cream, esatto. Cioè, gelato. Gusto vuoi? Vedi, fragola. Ice cream. Fragola. Ice cream. Capito? Esatto. E Nintendo in perdita. Vabbè, e invece Microsoft ha fatto abbastanza il botto, anche perché pochi giorni dopo che è stato lanciato sul mercato europeo hanno già scritto un driver open source per farlo girare su PC. Cazzo, figata! Esatto, è stato già portato anche su Mac questo driver open source e già si sta cominciando a lavorare delle applicazioni, diciamo, serie. Sto aspettando che mi facciano l'interfaccia, la Minority Report per Linux. Immagino come saranno serie queste. Sì, ne ho visto uno, lascia stare, meglio se non ti dico quello che ho visto. Bellissimo. Sempre il cam c'entra. Quindi un giorno sempre. Applicazioni super futuribili, futuristiche, arriveremo nella nostra casa, con un gesto della mano tireremo giù la tapparella, cosa che adesso dobbiamo farlo con un gesto della mano. Dettagli. Beh, insomma, dettagli. No, non so se hai presente... Quando cadono le cose si sentono in microfono. È la quarta volta che cade il mouse. Prima o poi muore. Ma non importa, insomma, finché non cade il mix. È un mouse da laboratorio, cosa vuoi che ti dica? Marshall dietro. Ma è assicurato. No, hai presente il film, sempre in Minority Report, a parte la famosa interfaccia, c'è la scena dove lui guarda il filmino delle vacanze con la sua moglie morta. C'è questa scena di questo filmino. Cioè, questo è andato in vacanza con la moglie morta. Con la moglie morta, ha fatto un filmino. È una cosa un po' così. Weekend con il morto. Esatto, ha fatto questo filmino che viene proiettato in tridimensionale. E il tridimensionale che viene fatto come questo effetto che viene fatto virgola, utilizzando Kinect è stato realizzato un'applicazione che appunto sfruttando il sensore di profondità di Kinect e la webcam integrata in Kinect ricostruisce diciamo un'immagine pseudo 3D che assomiglia molto a quella che viene usata. Quindi tu sei lì da solo come un pirla, ma ti vedi nel monitor in 3D. È molto interessante. Da solo con un pirla, con la moglie morta. È molto difficile, ragazzi, spiegarlo durante l'opencast, ma fidatevi. Molto fidatevi. Provate a bere una birra, forse riuscite. Sì. No, vai pure. No, vado pure. Vai a bere. Ciao. Tu devi andare anche tu. Vado in bagno. Gianna, c'è da fare. Regia, io non ho capito. Infatti. Cosa devo fare? Niente, io vado con uno stacco musicale. Stacca. Va bene, allora niente, stacco. Cos'era la sigla? You don't have a clue that what you do affects my life and now I'm screwed. Hey, tell me who are you to choose? I want a spot wrong, come on and then stop to pretend that you're my friend, that you're just giving me a helping hand to understand the way I am is somehow not how it's supposed to be. You say I'm free, but then you treat me so I'm down on my knees. Back off, girl, I'm coming back, this is my game, yeah. And I'm aware that life's not fair, but I'm not there to hit rock bottom, so I take my share. And no despair, no empty stares. No, I don't wanna be like that. And now despite my broken pride, I have decided that I will fight. Don't let you keep your lies, no alibis. This is the time that I'm gonna make this deal. Then you'll see how much I'm free, and eventually you'll be down. Opencast, un podcast a basso contenuto di sodio. Bassissimo contenuto di sodio. E si stava parlando in questo inframmezzo musicale di sistemi di sicurezza di nuovissima generazione. No, più che altro nuovi virus. Di nuovi virus. Virus. Per esempio, Coso ha sentito parlare di virus che un giorno attaccheranno la nostra CPU, la nostra GPU, la nostra PPU. PPU. No, perché dicono che ci sono questi nuovi... PPU. Cioè, SEL è... PPU. Point Protocol Unit. Non è vero. Comunque, ci saranno questi nuovi virus che invece di attaccare il sistema operativo prenderanno ad attaccare questi componenti che... Cioè, comunque sono fatti da persone umane, quindi dentro qualche bug, qualche problema ci sarà. Pensavo ci fosse gente dentro, da come l'hai detto, sono fatte da persone umane, questa povera CPU dentro, dentro ci una sono famiglia. 6 milioni di transistor e 4 cinesi. E 4 cinesi, sì. Che dici, li hanno integrati nel processo produttivo, sì, gli hanno promesso una casa, il governo, e dice, eccola qua. Loro e tu pensa, sono quelli che lavorano più di tutti. Quindi quella famosa macchina del film Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, l'hanno fatta alla fine. Sì, l'hanno fatta. Rimpiccioliscono la gente e la sparano nelle CPU. Ma no, questi nascono già piccoli. Ah, sono proprio così. Basta che li metti nella bottiglia appena nata. Forse stiamo esagerando, però comunque però. Si sta aprendo questo nuovo orizzonte, questa virus nuova per la tua CPU. E allora cosa fai? Gli metti un preservativo? O forse chiami Intel e gli dici quella roba che avete fatto un po' di tempo fa, Palladium Trusted Palladium Platform Module, ma tu ne sai chip e chop, ma era veramente una roba per contrastare questo, era solo un sistema di controllo a livello globale per conquistare il mondo? Echelon. Sì, ma quello ci spie e basta. Insomma, passiamo a nuovi argomenti. Io volevo segnalarvi in questa nuova rubrichetta applicazioni per il vostro telefono rubrichetta Android, un paio di applicazioni molto interessanti per chi non le conoscesse. Allora andiamo a sbloccare il nostro telefono, sblocca molto bene, andiamo nel menu, molto bene. Hai comprato un nuovo telefono? Sì, ragazzi, sono passato ad Android per la vostra felicità. Cosa hai preso? Se vi interessa, un terminale molto carino, a mio avviso un ottimo rapporto prezzo-prestazione, si tratta dell'LG Optimus One. Nessuno mi paga per fargli pubblicità, comunque cercate su Google, ci sono delle ottime recensioni di altre persone. Vuol dire che lo stai già vendendo e stai cercando un compratore? Assolutamente no, sto solo dicendo che è un buon terminale, 600 MHz di processore Qualcomm, 512 MB di RAM, scheda SD espandibile. Qualcomm. E soprattutto, ragazzi, il primo... È tutto società torna della prima e soprattutto il primo terminale sul mercato con Froyo 2.2 Android. Frodo? Ah, pazza! Eccolo. Quindi di cosa vi voglio parlare? Un paio di... Che palle questa realtà aumentata. Allora, innanzitutto ho scritto... Mi si è aumentata la realtà. Ho scritto a quelli di Wicked to Drive dicendogli: Hi guys, I am an Italian boy. I would like to try your beautiful, your wonderful program. I want to become a beta tester. Can you send me your program? Non ho avuto risposta. E nel frattempo invece ho provato un'altra applicazione che si chiama AugutSat, AugutSat Nav, e che lo trovate in forma gratuita sul market di Android. Anche questo è una sorta di navigatore che sfrutta il GPS, la bussola, la webcam del vostro telefono e in pratica sovrappone le immagini prese dalla videocamera alle mappe. E c'è una versione sia per terrestre, cioè pedonale, per chi va in giro e ti fa vedere il tragitto sovrapposto alla, insomma, realtà aumentata, oppure c'è una versione beta automobilistica che sto provando ma non riesco perché non ho una connessione. Non è una macchina, è quella che usava Alonso nell'ultimo Gran Premio. Quello su Marte l'hanno già implementato? Quello su Marte l'hanno già implementato. Sì, ma mi sa che non c'è campo là. Non c'è campo. E poi, se volete, ci sono sempre programmi bellissimi come per esempio non lo so, tipo le c'è G-Edit. Sì, sì. Ci sono le spade laser, queste robe queste robe qua sono molto fighe, cioè questo è bello, è stupida. Tu muovi il telefono. Fantastica. Per gli appassionati di Guerre Stellari, Android Lightsaber. E con questo passo la parola a Davide che ci Coso. Coso. Vuoi parlare? Vai, Coso. Allora, io volevo parlare un attimo di Windows Phone 7. Il lato oscuro. Il lato oscuro. Siamo giusto in tema. Basta farti le spade. È il loop, la spada. Basta che poi diventi cieco. Aspetta che cambio colore la spada. Questa è quella rossa. Metto la blu. Ma cambia anche il suono? No. E allora? Però se volete, però se volete, cioè, alleluia, musica coperta da copyright, però 5 secondi la possiamo far sentire. No, uno, basta, due, basta, basta. Ah, per piacere. Comunque io volevo parlare di Windows Phone 7. Questo è il lato oscuro che si sta impossessando di noi. Comunque hanno scoperto già un primo modo per bypassare alcuni piccoli problemi che ha questo nuovo sistema operativo di casa Microsoft. Cosa intendi per bypassare? Diciamo che c'è questa bellissima funzione cerca in molti telefoni che stanno uscendo e continueranno a uscire con su Windows 7. Purtroppo sono impostati per lavorare solo con Bing. Bing. Bing. È entrato in loop. Sta Bing. Uscendo il mio telefono, vado a riprenderlo. che cazzo sto facendo? Bing. Ragazzi, ragazzi, basta giocare. Ragazzi, questo dei telefoni che escono in continuazione è un problema. Io sto parlando col mio seriamente, dico, allora tu puoi uscire, però me lo devi chiedere. Facciamo, prima ci di mettiamo mezzanotte d'accordo. A casa. Ecco, a casa, perché io se c'ho bisogno, cosa faccio? Ecco. E comunque, lui, ma io ho già una certa età, voglio la mia indipendenza. Sì, sì, esatto. Ma gliel'hai regalato un telefono? No, perché adesso questi hanno il sistema operativo, hanno il processore, si sentono grandi, capito? Ah. Non sto mica più il telefono. Guarda che non sto mica più il telefono di una volta, che facevo solo il numero, la ma chiamata. Ma c'ha mica le DLL l'SMS. Il tuo telefono? C'è una no, DLL? No, no, no, tu no. Non ci sono DLL, attaccabili. Stai attento, attaccabili. C'è la DLL Microsoft Phone Interop Service. Ah. Adesso è chiaro. Chiaro, sì, c'è certo. Una DLL in Windows 7 Phone che permette di avere un controllo seriale. Ah, è un po' come un serial killer. Tu entri dentro e pastrugni un po' di cose. Certo, devi programmare in codice macchina. Ma chi è che non si sveglia la mattina e programma in codice macchina? Ma io lo faccio per far colazione, eh. Devo programmare io in codice macchina. Dopo. Dopo la sigaretta, dopo il caffè. Programmi in codice macchina. Programmo in codice macchina. Capisco. Anch'io programmo in codice macchina, infatti non trovo più la macchina, devo averla programmata male. Comunque ragazzi, kit. Allora, per Natale tutti i tablet. Mi kit. Raccomando, eh. Torna, Kit. Metti. Non mi risponde più. Kit. Chissà cosa gli hai programmato. Kit. È andata a comprare il tablet. Non risponde più. È andata a comprare più. Il cat. Perché mi hanno sostituito l'orologio originale di Kit con uno cinese, forse non parla Belle più. Debugging. Aspetta magari. Un attimo. What the fuck, Kit? Ma c'è una Toyota alla porta. Oh, forse risponde sarà adesso. Sarà mica lei. Quindi per Natale dicevi tutti i tablet. Giapponese. Allora, per Natale dobbiamo comprarci tutti il tablet. Noi paghi tu. No, vabbè, cioè, regalo di Natale. Giusto. Ah, ci fai il regalo di Natale. Sì, però io voglio il tablet con la webcam e il GPS. Va bene, va bene. Per la realtà aumentata. Va bene. se no non ha senso. Lo strozzo. Se lo trovo, te lo compro anche con l'antifurto a 220. Oh. 220 volt, tu lo tocchi e muori fulminato. Tu e la tua cavolo di realtà aumentata. Ok? Bravo. Allora, A Natale tutti i tablet. Perché? Perché è uscito il primo giornale solo da leggere sui tablet. Ma a me? Tu non leggi, ho no, capito che ma non mi leggi. Interessa quel giornale? Ma non lo so, lo fa Murdoch. Allora non mi interessa. Vabbè, allora. Mi sembra che abbiamo concluso questa puntata di Opencast, ormai abbiamo fatto i nostri ben minuti. Ragazzi, altre cose da allora, dirci. Ragazzi, allora, prima cosa, io voglio il titolo delle canzoni. Dunque, giusto, vi abbiamo fatto ascoltare a forza, in apertura, la Diablo Swing Orchestra con Barrog Twist? Ganzi, non era Ganzi. Twist, e non vedo tutto il titolo. Barrog Buggy. Barrel Buggy, bravo, buggy. E mi taglia via un pezzo. Barrel Buggy. È poco professionale, buggy. Vero? E invece più o meno a metà vi abbiamo annoiato con il Loud Dog ancora, anche questa volta. Saranno contentissimi di annoiarci. Esatto, con il pezzo Go To Hell, infatti era un pezzo molto pesante e cattivo. Tamarro. Siamo tamarro, molto tamarro. Pesanti questa sera. Per concludere, sì? 5, meno 6, meno 7, orizzontale. Eutanasia informatica veloce. Alt gr sis rec i. Provatelo. Questa mi è difficile. L'hai fatto? Sì. Su che cosa? Su un server. Alt gr? Alt gr. Quello a destra della spazio. L'alt grafico. L'hai fatto? Sis rec sarebbe il tasto stampa. Stamp. E la i. E la i. Non farlo lì. Oh che bello, aspetta no, che provo. No. Dai, che provo. No, ma funziona sì, dai, su no. Alt gr. No. I. No, cioè io l'ho fatto su una Debian. Stable. O è abilitato. Sì. Alt gr. No, è abilitato. È abilitato. Paura. Fa paura. Molta paura. Si blocca tutto. Kill tutto. Tutto. Non risponde più. Tutto. Nulla. Kill è tutto. Questa è tutto. È questa puntata, diciamo. Kill è tutto. Questa è tutto. Ragazzi, abbiamo io ho un po' di fame. Vabbè, facciamo... andiamo da Piadinaro, va. Una piada. Che ci abbiamo tempo. Allora, io direi che possiamo concludere qua questa seconda puntata di Opencast Alpha. In studio abbiamo avuto Loris, Coso e io. E abbiamo avuto Gianna in collegamento esterno dalla sede segreta del Gellecomo. Non sporcare la sede, eh. Gianna, vuoi salutare ancora? Sì. Dire qualcosa? Ciao a tutti. Grazie Gianni. Ciao a tutti, molto, da Ilario. Molto coinciso ma al punto, esatto, proprio. Così. È stato coinciso. Va bene, io direi che possiamo chiudere qua. Siamo a posto. Va bene, allora, Altgr. No! Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del Gellecomo. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. No, aspetta, chiudere, aspetta! No. È già chiuso?